Salva Danaio di Deborah Rosciani. E ricominciamo un'altra settimana insieme, buona giornata. Da Deborah Rosciani benvenuti a tutti a Salva Danaio. Allora, qualcuna è molto presenzialista su tutti i media, altre sono molto più dimesse anche nel modo di farsi conoscere all'esterno, alcune sono piuttosto specializzate, altre sono più generaliste e offrono consulenza un po' su tutto. Insomma, il mondo delle associazioni dei consumatori è molto ampio, è cresciuto notevolmente negli ultimi anni. La sentinella dei consumi e dei diritti dei consumatori attiva su mille fronti, alle prese con mille battaglie. Sono decine e decine le azioni di pressione che vengono puntualmente, periodicamente organizzate, ma anche i risultati che vengono portati a casa. Nelle scorse settimane il dibattito si è soffermato anche sul loro stato di salute dal punto di vista finanziario, visto che da quest'anno le organizzazioni non hanno più diritto ad alcun fondo pubblico, però possono contare ancora su migliaia e migliaia di iscritti e dunque sul finanziamento da parte del mondo dei privati. Allora, perché oggi torniamo ad accendere un faro sul lavoro delle associazioni dei consumatori del nostro paese? Perché oggi a Salva Danaio torniamo a parlarne da un punto di vista un pochino più ampio del solito. Oggi, 15 marzo, viene celebrata la giornata europea del consumatore. Questo è un tema molto importante, un punto di vista interessante, perché oggi il tema del consumo transfrontaliero è una realtà diffusa e assolutamente consolidata. Tutti viaggiamo, tutti lo facciamo al di fuori dei confini domestici, utilizziamo compagnie che naturalmente sono per larga parte straniere. Moltissimi di noi fanno acquisti online perché con internet abbiamo la possibilità di accedere a tutti i mercati mondiali, per cui dobbiamo, anche per questi esempi che abbiamo fatto, abituarci al nuovo concetto di consumatori europei, non solo domestici. Come tali siamo consumatori chiamati ogni giorno ad apprendere tutte le novità legislative, i nuovi diritti e le nuove tutele che arrivano da Bruxelles e alle quali ci uniformiamo. Allora, stamattina siamo partiti un po' dall'alto, ma naturalmente vorremmo conoscere anche la vostra opinione sull'argomento di oggi, non tanto se siete associati o meno ad un'organizzazione dei consumatori, quanto quali ritenete siano le battaglie che magari non hanno trovato largo spazio fino a questo momento anche nella loro attività e che invece andrebbero in qualche maniera enfatizzate di più anche sul tavolo dei lavori di Bruxelles. Allora, stamattina i nostri interlocutori saranno Federico Vicari, direttore del Centro Europeo Consumatori Italia di Adiconsum. Vicari, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno. Molto attiva di Consum oggi in questa giornata europea del consumatore, perché ha attivato dalle 10 di questa mattina a Roma la Galleria Alberto Sordi 8 stand a disposizione dei consumatori per ricevere materiale, consulenza gratuiti. Poi Adiconsum incontrerà anche la stampa, ma soprattutto c'è questo punto di riferimento oggi per tutti coloro che fossero interessati a conoscere il funzionamento dell'associazione dei consumatori, ma soprattutto ad avere delle risposte magari su qualche situazione di conflittualità aperta con qualche azienda oppure qualche situazione particolare. E poi con noi stamattina anche l'avvocato Massimiliano Dona, segretario generale dell'Unione Consumatori, ma soprattutto rappresentante italiano nel gruppo consultivo consumatori presso la Commissione europea, per cui da qualche tempo l'avvocato Dona frequenta Bruxelles più frequentemente del solito. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. E ricordo anche che peraltro l'Unione Nazionale Consumatori è probabilmente l'associazione più vecchia, è un brutto termine, ma comunque con l'esperienza più consolidata nel nostro paese. Nata nel 1955, il papà dell'avvocato Dona, Vincenzo Dona, è riconosciuto proprio come il padre del consumerismo in Italia. Allora, microfoni aperti a voi ascoltatori all'800 24 00 24, scriveteci al 349 238 6666, canali sempre aperti per voi per interagire con noi di Salva Danaio per il tema appunto che vi abbiamo proposto questa mattina. Diamo un'occhiata alla borsa prima di partire, perché siamo già un pochino in ritardo sulla tabella di marcia. Borse stamattina caute, moderatamente negative, meno 0,2% la perdita media fra i listini del vecchio continente, un po' meno perde Francoforte che cede lo 0,09%, ma anche sul fronte valutario abbiamo una sostanziale tranquillità. Euro su dollaro 1,3726, dicevamo, giornata sia sul mercato azionario che su quello valutario interlocutoria, in attesa delle indicazioni che arriveranno in settimana dalla Banca Centrale Americana, dalla Banca Centrale del Giappone. Abbiamo anche oggi diversi dati economici dagli Stati Uniti, in particolar modo focus sulla produzione industriale di febbraio, e poi oggi, visto che facciamo un gran parlare di Bruxelles in questa giornata. Oggi a Bruxelles si riuniscono i ministri delle finanze dell'Eurozona, ancora una volta pronti ad analizzare la situazione della Grecia. Piazza Affari, in questo momento i migliori titoli: Campari più 1,14, Snam rialzo di un punto, Parmalat più 0,9, Terna più 0,8%. In discesa gran parte dei titoli del settore bancario, ma il peggiore adesso è Tenaris che perde l'1,28, segue Mediaset e meno 1,27, un ribasso di oltre un punto per Banco Popolare, per la Popolare di Milano, per Buzzi Unicem, Pirelli e CIR. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Oggi facciamo un po' il punto delle mille battaglie in corso da parte delle associazioni dei consumatori, visto che oggi si celebra la loro giornata europea. In un discorso del 15 marzo 1962 al Congresso americano, l'allora presidente John Fitzgerald Kennedy formulò per la prima volta i quattro diritti fondamentali dei consumatori. Quali? Il diritto alla sicurezza dei prodotti, ad una completa informazione, ad una libera scelta e quello ad essere ascoltati. Oggi, quasi 50 anni e numerose battaglie dopo, nella stessa data si festeggia la 12ª edizione della Giornata Europea del Consumatore. Manifestazione che ha come obiettivo quello di informare il pubblico sulla politica europea per la protezione dei consumatori e sulle attività che le varie associazioni che li tutelano svolgono. Dai prezzi dei generi alimentari a quelli della benzina, dai disagi connessi a trasporti e turismo ai rincari della telefonia mobile. Questi sono stati i fronti principali che hanno visto impegnati negli ultimi anni le 17 associazioni che rappresentano i consumatori italiani. Senza dimenticare le banche, spesso al centro di vere e proprie battaglie tra rate dei mutui elevate e rapporti poco improntati sulla trasparenza con i clienti. E se le conquiste ottenute sono molte, restano comunque ancora diversi nodi da sciogliere e da portare all'attenzione delle autorità e dei cittadini. 800 24 00 24, numero verde per gli interventi dei nostri ascoltatori. Vedo già che qualcuno si sta mettendo in coda al nostro centralino e devo dire che qualcuno si lamenta per il fatto che, per esempio, qualche volta scriversi ad un'associazione dei consumatori costa di più rispetto alla controversia che deve essere risolta. Ma non è che dobbiamo iscriverci ad un'associazione dei consumatori per risolvere quella controversia, si ha poi l'opportunità di usufruire di tanti servizi, quindi magari si possono mettere sul piatto della bilancia cose diverse. Magari, se riusciamo, sentiamo anche questo ascoltatore nel corso della nostra trasmissione. Però subito la parola intanto a Federico Vicari, direttore del Centro Europeo Consumatori Italia. Non è alla galleria Alberto Sordi con gli altri colleghi di Adiconsum questa mattina, perché è dovuto rimanere in ufficio per essere a nostra disposizione. Ci spiega un po' qual è il lavoro di questo Centro Europeo Consumatori Italia di Adiconsum, dottor Vicari? Certamente, buongiorno, i colleghi li raggiungerò presto, diciamo, però ora affrontiamo dei temi importantissimi. Il Centro Europeo Consumatori Italia è il nodo italiano di un network europeo, quindi una rete che è stata fondata dalla Commissione Europea, la Direzione Generale Sanco, ed è cofinanziata con i governi nazionali, quindi in Italia il Ministero dello Sviluppo Economico. In pratica l'obiettivo di questa rete è quello di fornire consulenza e assistenza nelle controversie transfrontaliere di consumo, ossia quando un cittadino italiano acquista da un'impresa estera o viceversa, laddove nascesse una controversia su quella transazione, la nostra rete è deputata ad offrire una consulenza, quindi inquadrare la problematica all'interno dell'attuale normativa europea e nazionale e fornire un'assistenza gratuita, stragiudiziale, per arrivare ad una soluzione conciliativa del problema. Ecco, naturalmente una domanda che molti ascoltatori possono farsi, adesso non me ne sono arrivate di questo tipo, così cerco io un po' di interpretare anche quello che potrebbe essere il loro sentiment in questo momento ascoltando questo argomento. Dice: ma che cosa ci serve un Centro Europeo Consumatori? Noi abbiamo naturalmente dei problemi che sono nostri e quindi magari, non lo so, un servizio di questo tipo potrebbe essere visto come non completamente utile. Dottor Vicari, che cosa lo avete utilizzato fino a questo momento, visto che parliamo di comunque risoluzione concreta di casi concreti? Dunque, diciamo che l'intera rete riceve ogni anno oltre 60.000 contatti dai consumatori e sono contatti che vanno aumentando di anno in anno. Vorrei approfondire per chi pensasse che il consumo è una vicenda nazionale e che quindi un centro che faccia in realtà assistenza trasfrontaliera sia non necessario. Diciamo che la normativa nazionale deriva essenzialmente dalla legislazione europea, quindi se non ci fosse stata l'attività normativa della Commissione europea probabilmente in Italia non parleremmo a questi livelli di tutela del consumatore. Quindi proprio la tutela del consumo ha origini europee, stiamo semplicemente dando una risposta a quello che è l'origine proprio della normativa. positiva. E se oggi abbiamo un mercato che tende ad essere l'economia più competitiva e basata sulla conoscenza del mondo, lo dobbiamo all'Unione Europea. Quindi il fatto che l'Italia oggi sia all'interno di questa questo continente e dell'Unione consente naturalmente a tutti di poter usufruire di prezzi più competitivi, di beni che non si trovano a livello nazionale e che possono essere reperiti altrove. Diciamo che l'unità del mercato è un'opportunità incredibile per i consumatori. Quello che dobbiamo cercare è appunto di affermare questa cultura e quindi di contestare il fatto che il consumo sia una questione nazionale. E infatti le ho introdotto questo argomento perché so che è un tema al quale tiene molto anche l'avvocato Dona. Lo dicevamo prima, ci siamo sentiti naturalmente prima della partenza della trasmissione, il consumo transfrontaliero è una realtà assolutamente diffusa, milioni di cittadini in Europa viaggiano, fanno acquisti di beni e servizi in altri paesi, si servono dell'e-commerce. Le opportunità del mercato unico sono positive, ma molto spesso il fatto che certe leggi, certe opportunità, certi regolamenti ci cadano dall'alto, avvocato Dona, fa un po' fatica ad essere percepito anche. Facciamo un po' fatica ancora ad entrare nelle vesti di consumatori europei. Ma sì, anche perché spesso si parla, forse giustamente, di consumi transfrontalieri, poi la rete di sportelli che sta curando Adiconsum si occupa prevalentemente di questo, ma noi abbiamo il dovere di ricordare ai cittadini italiani che le regole europee fanno bene anche agli acquisti che facciamo sotto casa. Intendo dire che le regole europee disciplinano anche i rapporti interni agli Stati membri, quindi dobbiamo in alcuni campi proprio all'Europa il fatto di aver allungato ad esempio il termine di garanzia su un prodotto. Le regole italiane prevedevano un anno di garanzia su tutti i nostri acquisti, grazie a Bruxelles, questo è un buon esempio, questo termine è raddoppiato, abbiamo 2 anni di garanzia su tutti i prodotti. Dico questo perché spesso la sensazione che farci parlare di regole europee serva un po' ad allontanare queste norme dal nostro quotidiano, che invece valgono naturalmente se acquistassi qualcosa su un sito francese, spagnolo o inglese, ma anche se acquisto qualcosa sotto casa. Quindi è proprio questo il messaggio che vorrei dare, proviamo ad essere consapevoli del fatto che in alcuni settori l'essere cittadini europei ha allargato e migliorato il nostro quotidiano. Eccoci ritrovati in diretta. Stamattina stiamo parlando della giornata europea del consumatore, che si celebra appunto proprio in questa giornata. Allora abbiamo cercato di capire qual è il senso di questa celebrazione e ce lo stanno spiegando due persone che di queste tematiche conoscono molto bene: Federico Vicari, direttore del Centro Europeo Consumatori Italia di Adiconsum, e Massimiliano Dona, segretario generale dell'Unione Consumatori, ma soprattutto gli abbiamo fatto vestire oggi la sua veste di europeo, per l'appunto, nel senso che è rappresentante italiano del gruppo consultivo consumatori presso la Commissione Europea. Abbiamo invitato gli ascoltatori a spiegarci quali sono in qualche maniera le tematiche sulle quali si sentono meno rappresentate dell'Associazione dei Consumatori, che comunque fanno centinaia di battaglie, ma soprattutto quali sono le battaglie che dovrebbero essere maggiormente italiane portate a Bruxelles, quindi in che modo dovremmo far sentire di più la nostra voce. Io vedo che forse non ci siamo spiegati molto bene con l'argomento, ma il tema che viene fuori più di frequente, qui volevo subito coinvolgere Federico Vicari per capire se questo è un tema che trova spazio nelle lamentele che i consumatori fanno presso questo sportello, presso il vostro centro europeo, il tema del conflitto con la banca. Qua non ne veniamo fuori, quindi parliamo di commercio transfrontaliero, fondamentalmente di consumo transfrontaliero, ma il tema più frequentemente di maggior conflittualità in Italia è sempre quello, Vicari. In qualche maniera vi arrivano delle segnalazioni anche su questo punto? Guardi, oggettivamente no, nel senso che le campagne informative che facciamo sulla nostra attività rappresentano sono il nostro network come network tecnico, cioè di gestione tecnica delle controversie trasfrontaliere. Peraltro in materia di servizi finanziari la Commissione Europea ha istituito un'altra rete che si chiama FinNet e si occupa appunto di prodotti bancari, assicurativi, finanziari, eccetera. Quindi diciamo siamo un po' estromessi da questa, certo, da questa competenza, perché non ne rileviamo proprio numericamente. Come certo, è. Allora vado all'avvocato Dona su questo punto, perché mi sembra di capire che nonostante le battaglie fatte negli ultimi anni nel nostro paese per avere un rapporto più trasparente con la banca affinché questa ci vendesse il miglior conto corrente, quello a costo più trasparente, il miglior prodotto finanziario, qua dobbiamo fare ancora un bel po' di lavoro. È un tema che per esempio come controparte italiana portiamo a Bruxelles, avvocato? È molto difficile questo, perché le banche italiane hanno un modo molto provinciale, se mi si passa il termine, di gestire il rapporto con la clientela. Io quando mi confronto su questi temi con i colleghi europei, cioè i rappresentanti delle associazioni degli altri paesi europei, mi guardano come se veramente venissi da una repubblica terzomondista. Io questo lo devo dire. Si dimentica una cosa fondamentale, che entrando in banca si entra nella propria banca e io sono il cliente di quella banca. Non dovrebbe esserci un atteggiamento di conflittualità, come se andassi nella compagnia di assicurazione della mia controparte a reclamare il risarcimento del danno subito. Ecco, lì in quel caso ho una controparte davanti. La banca teoricamente dovrebbe essere dalla mia parte. Dico questo con un sorriso amaro, perché noi delle associazioni siamo in Italia frequentemente chiamati a tavoli di discussione, a siglare protocolli d'intesa con i più grandi gruppi bancari, ma c'è una frattura evidente tra il rapporto che si stabilisce con la dirigenza, l'alta dirigenza della banca, e ciò che poi il cittadino paga in filiale. Io stesso sono testimone, e nella mia banca sanno il ruolo che svolgo, di vicissitudini che vanno dalla trascuratezza più banale, se vogliamo, l'inutile burocrazia, a cose un pizzico più gravi, come magari qualche costo non concordato che mi viene recapitato sul conto corrente. Ecco, credo che l'Italia in questo rappresenti davvero un cattivo esempio. E poi un po' una metafora di come vanno le cose nel mercato italiano, che è aperto alla liberalizzazione, alla concorrenza, è, ahimè, lo devo dire, esposto a frequenti insidie per i cittadini. Il mercato dei servizi finanziari è teoricamente liberalizzato, ma sembra che questa concorrenza non abbia fatto bene ad innalzare il livello di garanzia dei cittadini, che si lamentano frequentissimamente. Le banche sono ai primi posti nelle classifiche di lamentela dei nostri sportelli. Esattamente, devo dire che però anche da parte nostra abbiamo il difetto molto grande di non sciogliere molto frequentemente il rapporto con la banca, e questo però è un tema che stamattina magari non ha spazio per essere trattato, ma lo denunciamo continuamente. Se siamo insoddisfatti facciamo proprio fatica ad abbandonare il nostro sportello storico, così come capita per esempio per l'assicurazione e per tanti altri ambiti. Detto questo, ci sono anche delle situazioni, torniamo ancora al nostro consumatore europeo, ci sono delle situazioni in cui l'Italia ha delle best practice e a volte si uniforma però verso il basso, ottemperando alla lettera le direttive europee che darebbero la facoltà al paese, appunto, in realtà di mantenere questa pratica buona, ma in realtà come dire, è come se trovesse, se volessimo sempre trovare ogni escamotage possibile per comunque in qualche maniera penalizzare il consumatore. Io stamattina, nell'altra trasmissione di cui la mia redazione si occupa, Soldi e Dintorni, abbiamo affrontato il tema delle nuove regole per i rimborsi di chi subisce ritardi per il traffico ferroviario, e avevamo una buona pratica in Italia, quella cioè di garantire il 50% del rimborso sul biglietto per un 25 minuti minimi, appunto, di ritardo. La direttiva europea che noi abbiamo recepito in dicembre dice altro. Vicari, magari vengo a lei su questo argomento, e noi ci siamo uniformati, le Ferrovie dello Stato si sono uniformate appunto in termini peggiorativi. Non è una buona cosa questa? Sì, effettivamente questo deriva da un regolamento, dal nuovo regolamento comunitario sul trasporto ferroviario, che è entrato in vigore a dicembre, lo scorso dicembre. Devo dire però, e questo è verissimo, lei ha fatto un'osservazione perfettamente corretta, devo dire però che è veramente un caso isolato. Il trasporto nel nostro sportello rappresenta il 65% del lavoro, ovviamente il trasporto aereo, perché per tornare a chi è il consumatore europeo, quando noi acquistiamo un biglietto con una notissima compagnia low cost, per esempio, con una delle tante compagnie low cost, di fatto stipuliamo un contratto trasfrontaliero, quindi l'eventuale controversia è una controversia trasfrontaliera, quindi il trasporto aereo nel nostro caso è materia quotidiana, quello ferroviario sul piano trasfrontaliero ovviamente un po' meno. Dicevo, quello che lei dice è giustissimo, in questo caso è così, ma è veramente un caso isolato, perché in tutte le altre materie disciplinate il vantaggio diretto per la normativa italiana è stato enorme. Allora, c'è un tema che è molto caro all'avvocato Dona, che è quello delle tematiche agroalimentari. Allora le faccio sentire un'osservazione, un commento, un caso che ci vuole segnalare un'ascoltatrice di Roma, che è Concetta, che saluto. Concetta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie innanzitutto del servizio che offrite. Grazie Concetta, ci dica. Ecco, io mi sono sempre chiesta, il consumatore che protezione ha quando non si fanno mai i nomi delle ditte che commettono reati di contraffazione alimentare, non conoscendo i nomi di queste ditte che magari poi alla fine vengono soltanto multate o chiuse per un certo periodo e poi tanto riapriranno, i consumatori, ripeto, non conoscendo i nomi di queste ditte, continueranno a comprarne i prodotti. Certo, Concetta, cioè, Bessa, sono, come dire, terreni a volte anche molto delicati, perché qualora si scoprisse magari che la responsabilità dell'azienda è limitata, lei pensi al danno dell'immagine e della reputazione che si fa, per cui è chiaro che prima di fare il nome si fa molta attenzione. Però, per esempio, avvocato Dona, con la questione del consorzio del mozzarella di bufala campana, nomi e cognomi erano stati fatti. Comunque, in sostanza, ha ragione Concetta? Sì, Concetta coglie nel segno, questa è una lamentela che ci viene rivolta molto spesso. È anche vero che prima di gettare sulle prime pagine, quindi diciamo in pasto ai mezzi di informazione, un'azienda per un comportamento scorretto, bisogna fare degli approfondimenti. Però è da tanto tempo che chiediamo che, avvocato Dora, mi aspetta solamente un attimo, adesso la faccio concludere, però sulla 7 stanno mandando il servizio in questo momento in onda relativamente alla giornata europea del consumatore e di Consum, sentiamolo in diretta. Non è efficace né come quella negli Stati Uniti, ma neanche come quella in Grecia o in Portogallo. Per la di Consum, in periodo di crisi, diventa soprattutto importante puntare sulla qualità dei servizi. E la di Consum intende battersi in questa direzione per spostare quello che è l'attenzione dei consumatori a tutta la problematica dei servizi. Penso alla salute, penso ai trasporti, penso alla scuola, penso alla pubblica amministrazione, dove qui veramente abbiamo dei servizi al di sotto degli standard civili. E io credo che in futuro le associazioni consumatori debbano rivolgersi a questi obiettivi per migliorarne la qualità. Magari anche noi affronteremo il tema dei servizi fra qualche istante. Avvocato Dona, così mi era sembrato curioso poter fare questo blitz in diretta a Salvadanaio. La lascio concludere sulle tematiche delle frodi alimentari. Concetta dice: non siamo molto tutelati, perché chi commette queste frodi, noi non conosciamo mai il nome, quindi continuiamo a rischiare di comprare ancora gli stessi prodotti, gli stessi alimenti. A Bruxelles si parla anche di questo? Sì, stavo appunto dicendo che non solo non conosciamo i nomi, ma soprattutto non conosciamo i rischi, perché una cosa che possiamo rimproverare a Bruxelles è senz'altro che l'allarme, c'è tutto un sistema molto complesso di allerta, non sia effettivamente tempestivo quanto i consumatori auspicherebbero. Con ciò si creano anche danni all'economia, perché sappiamo bene di alcune vere e proprie influenze mediatiche che hanno invaso alcuni comparti, penso al tema della carne, dei polli, delle uova in passato, gettando i consumatori in uno stato di completa incertezza, per cui a volte la reazione del consumatore è stata anche eccessiva, ha evitato di comprare prodotti che invece restavano sicuri. Viceversa, come ci dice l'ascoltatrice, poi chi invece approfitta della fiducia dei consumatori e la tradisce può magari continuare impunemente a commerciare, perché quel nome non finisce sui giornali, consentendo ai consumatori di esercitare quello che è il diritto fondamentale che ci ricordava anche il presidente Kennedy negli anni 60, cioè il diritto di scelta. Allora, 800 24 00 24, sto continuando un po' a monitorare così i temi che ci stanno proponendo i nostri ascoltatori. Io sto notando che in molti ci state chiedendo come mai non vi sono ancora arrivati i rimborsi, i titoli di Stato che hanno praticamente convertito le vecchie obbligazioni all'Italia, perché in gennaio il governo aveva deciso di procrastinare i termini, per cui entro marzo dovrebbe arrivare sul vostro conto titoli l'importo del concambio che era stato deciso. Se questo ancora non dovesse avvenire, monitoreremo, magari ci torneremo anche noi sulla situazione, ma non è questo un tema che vorremmo affrontare questa mattina, per aver detto una volta all'Italia vi siete scatenati su questo argomento, segno che ancora vi brucia, io lo posso ben comprendere. Oggi parliamo però di altro, siamo consumatori europei, ci sentiamo come tali, che battaglie si stanno facendo a Bruxelles anche a tutela dei consumatori italiani, che non sono più solo come tali, ma sono naturalmente consumatori europei. C'è un altro tema interessante che adesso con l'avvocato Dona vorrei affrontare, che è ancora quello dell'adeguamento, ancora quello relativo all'adeguamento del nostro ordinamento alle direttive che arrivano dall'Europa. Anche in questo caso qualche volta l'Europa è un po' matrigna, perché prima parlavamo di best practice che abbiamo in Italia, ma che magari cogliendo come opportunità direttive europee ci uniformano verso il basso. Qualche volta invece è l'adeguamento proprio che ci impone di andare verso il basso. Allora, il mercato unico come opportunità per i consumatori, una rete di tutele molto più ampia, ampia rispetto al passato, naturalmente nuove leggi che dobbiamo conoscere, e però su alcuni temi, avvocato Dona, l'Europa è matrigna, ci impone l'adeguamento verso il basso, come per esempio capita nelle normative del settore alimentare, dove eravamo piuttosto all'avanguardia. Ecco sì, dobbiamo proprio dirlo, perché se in certe situazioni i diritti dei consumatori hanno subito una positiva accelerazione grazie alle norme europee, in altri casi il processo di adeguamento ad una normativa unica per tutti i 27 Paesi membri ci penalizza, e in questi settori io annovero soprattutto quello della qualità e della sicurezza agroalimentare. Noi abbiamo standard di eccellenza ed in qualche caso siamo stati costretti ad adeguarci a normative europee che per far competere anche paesi come i nuovi entranti dell'est europeo vanno a penalizzare la qualità delle nostre produzioni. Penso anche ad alcune norme sull'etichettatura dei prodotti che grazie in questo caso invece alla pressione delle lobby dei produttori si ampliano a diciture che andremo a trovare nei prossimi anni sui nostri prodotti un po' ambigue, penso ai cosiddetti claims, cioè alle indicazioni su ciò che, sulle caratteristiche che l'alimento ha. Rischieremo di trovarci al supermercato come quasi in farmacia, di fronte ad alimenti che assomigliano sempre più a dei farmaci, nel senso che vendono caratteristiche e proprietà che rispondono a questo desiderio della moderna società di averci tutti più sani e più belli. Ecco, forse questa esagerazione con questi claims salutistici e nutrizionali rischia un po' di penalizzare i nostri alimenti che fanno bene e sono buoni e basta, pur essendo per altro verso assolutamente sicuri, perché i controlli che si svolgono in Italia sono di eccellenza. Ecco, su questo versante io segnalo un grido di allarme, la nostra voce a Bruxelles arriva molto bassa, non per la nostra scarsa capacità di pressione, quanto perché dall'altra parte ci sono i produttori europei che si fanno sentire, certo, come dicevo, le lobby industriali che sono moltiplicate a dismisura in quella sede. Volevo ritornare, allora, intanto 800 24 00 24 è ancora il numero verde per intervenire. Io continuo ancora a notare molti ascoltatori che si lamentano della conflittualità con la banca. Vabbè, non è questo stamattina il tema che vorremmo affrontare, ne abbiamo già parlato con l'avvocato Dona. A Bruxelles si può fare ben poco, però insomma si è fatto molto anche in Italia, anche se vedo ancora che i terreni di miglioramento sono molto vasti, come dire, ampie praterie. Volevo tornare a Federico Vicari, direttore del Centro Europeo Consumatori Italia, per capire concretamente, qualora ci dovessimo trovare a rivolgerci al vostro sportello, dottor Vicari, come si fa ad attivare un contenzioso, se fosse necessario farlo naturalmente, quali sono i suggerimenti che dati, ammettiamo appunto di aver preso, faccio un esempio concreto così lei ci aiuta a trovare la soluzione concreta, ho preso una compagnia aerea locale, non sono soddisfatta del servizio, il volo è andato male, ho perso delle coincidenze in sostanza e riesco a riconoscere che tutta la responsabilità in sostanza del viaggio è andato male e della compagnia aerea. Vengo da voi, come mi seguite e soprattutto come si attiva il contenzioso transfrontaliero? Perfetto. I passaggi sono tre essenzialmente. Il primo contatto che un consumatore fa nei nostri confronti, telefonico, via email, una visita personale, eccetera. In quel momento, in cui la prima fase, diamo una consulenza giuridica sulla fattispecie, quindi inquadriamo il reale caso concreto nella normativa. E inizialmente forniamo un supporto per presentare un reclamo in maniera autonoma, quindi forniamo delle lettere tipo, dei recapiti, indicazioni concrete per sporgere un reclamo. Questo ce lo chiede il protocollo della Commissione Europea. Quindi prima di tutto il reclamo. Prima di tutto il reclamo, cioè forniamo un supporto per reclamare in sostanza, per tentare una soluzione autonoma. Il secondo passaggio, qualora questo non sia stato di successo, il secondo passaggio consiste nel contatto diretto con l'impresa da parte della nostra rete in collaborazione con il Centro Europeo Consumatori del paese dove è sede l'impresa, perché naturalmente parliamo di controversie transfrontaliere. Quindi contattiamo la controparte chiedendo il rispetto dei diritti europei e nazionali del consumatore. Il terzo step, qualora neanche questo intervento, che può prendere un tempo di due mesi e mezzo, un po' variabile, qualora neanche questo abbia avuto successo, passiamo al terzo passaggio, che è quello di fare promozione dei sistemi di soluzione stragiudiziale delle controversie, che in acronimo si chiamano ADR, insomma sono conosciuti con questo acronimo. Quindi diciamo, questa è l'attività che facciamo, è interamente gratuita e quindi il contatto è semplicissimo, è diretto. Oltre a questo, uh-huh, naturalmente forniamo informazioni, materiale divulgativo, perché il nostro compito non è soltanto, certo, una gestione tecnica del contenzioso, ma anche quello di tentare di fare informazione al consumatore sul piano trasfrontaliero, sul piano europeo. Dottor Vicari, lei da quanto tempo è direttore di questo centro? Dall'aprile del 2008. Quindi da un paio d'anni. Quali sono i risultati più interessanti che secondo lei ha raggiunto il vostro servizio? E qual è magari la controversia più interessante che le è capitato, non dico di vincere, della quale le è capitato di aver ragione? Diciamo che controversie chiuse positive sono tantissime, se le dico che insomma chiudiamo casi positivi intorno al 65-70%, l'intero network dico. Il risultato più tangibile è nel notare che i reclami aumentano di anno in anno, nel senso che i contatti da parte dei consumatori aumentano di anno in anno, quindi questo diciamo è un positivo feedback per quanto riguarda il lavoro del centro. Però sposterei, diciamo, se mi consente, l'attenzione su un'ultima cosa per tornare, sì, al concetto di giornata europea del consumatore. Sì. Nella strategia per la politica dei consumatori 2007-2013, che è presente il documento attualmente in vigore della Commissione europea, vengono fissate 5 priorità. Se ho un minuto li elenco. Non abbiamo un minuto, se ce la fai in 30 secondi. D'accordo, 30 secondi. In sostanza si parla di monitorare meglio i mercati, una regolamentazione che punti all'armonizzazione più ampia, come dicevamo, un maggior rispetto proprio all'enforcement, quello che è l'applicazione concreta della legge, e quello che più conta, l'inserimento della politica a tutela dei consumatori in tutte le altre politiche europee, che si tratti di trasporti, di energia, di consumo sostenibile, eccetera. Questo cosa significa? Che oggi la tutela dei consumatori in realtà confluisce con la tutela dei diritti civili. E quindi credo che questo vada nella direzione di una democrazia economica e sinceramente sembra che sia in questo momento un tema meritevole di tutela. Benissimo, diciamo. Grazie Vicari. Concludo con l'avvocato Dona. Qualche contributo italiano dato in sede europea, nella sede appunto dove lei ci rappresenta come consumatori, c'è qualche episodio significativo da raccontare, anche perché è molto spesso interessante anche agli ascoltatori raccontare la grande concretezza del vostro lavoro, che non sempre è visibile neanche sui giornali. Ma la nuova sfida che stiamo presentando all'Europa è quella di assecondare gli ultimi sviluppi delle leggi italiane in materia di class action. Abbiamo anticipato i nostri colleghi degli altri paesi europei, anche a Bruxelles si sta lavorando ad una class action, cioè un'azione di classe valida all'interno del vecchio continente. Noi abbiamo un'esperienza importante perché, come ben noto, è questo nuovo strumento è azionabile dal 1 gennaio, sì, è uno strumento perfettibile, siamo stati noi i primi a denunciarne alcune inefficienze. Ecco, io credo che per una volta noi che recepiamo di solito le norme comunitarie forse possiamo essere un buon esempio, un caso pratico per spiegare come vorremmo una class action efficiente, e quindi speriamo anche per questa via di migliorare. Benissimo. La class action italiana. Avvocato Dona, grazie molte per essere stato con noi, così come ringrazio Federico Vicari. Sono in ritardo di un minuto sulla tabella di marcia del nostro palinsesto, mi scuso con chi mi segue e sono i ragazzi colleghi del giornale radio, per cui buona giornata a tutti.